Sarà giù Gianni. Prego, la tua. A me stavi dicendo già. Io fai una banda? Se Giuseppe invece che fa un chietto. Sta contagiando Giuseppe. Perché? Gianni. Cosa hai detto? Ho detto che Giuseppe si sta contagiando, è sbagliato l'uomo e ti ha chiamato Giuseppe. Cava cava. Va bene, ma fa già preso la vetta Giuseppe. Gianni. Proprio lui. Via. Si ha preso la vetta Giuseppe. Allora. Ah? Ho capito. L'avete già presa Giuseppe? Sì, ma ce l'abbiamo già in mano, ce la stiamo portando. No, cava di oggi. Cava di oggi l'accento, Vabbè, direzione è dopo due. Già andata bene mira, la persona si intende. Ma cosa mi fa, una telefonata o ti ascolto qua al baracco? Ascolta la radio, già ti chiamiamo via radio. Andrà bene, bene allora, già rimango in ascolto, adesso me ne faccio una tazzita per il momento, dai. E vai! Fate chiamata, dai, già sono qua in ascolto. Yeah. gomito a sparare. Ah, sovalente, sovalente. Spara, Dioscio, non tutto un pane, vedi, era un piano. Qui, Domenico, dove siamo diretti a Trapasso? E allora, sempre là. Positivo in compagnia di Gianni Doppio Runa, Carino e l'amico Giuseppe, cioè, Paolo, qualcosa. da questa parte, Gambio. A Maio. La febbra, avanti la febbra, avanti. Mi cuffi da questa parte, Vera, perché sto provando a fare il pietro di qua, ma non credo che stia uscendo bene. Io ti sento. Ti ascolto un basso in radio, ma già ti sento. Cambia capa. E vero che su? C'è la lucca. Vero. Ma so chi è. fa vedere. Se ci sono anche io li vuoi posso accomodare 5 anni vai facchetto due modi va facchetto lì fa qualcosa fai come di tu facchetto tu hai fatto due litri ma sai che la tua io a no no mi sono sbagliato voglio fare come la porto a facchetto Cambio. Ma che sei? Ma l'ho fatto un po' di volte, Quando sei a casa sei rilassato, quando stai lavorando sei sempre agitato, e poi alla fine poi la tranquillità arriva dopo, quando sei a casa per la sua poltroncina e vamos. Allo 0-1 ci vuole dopo una lunga giornata lavorativa un po' di riposo. Già da re andava sì. E così a tocca. A noi tocca e basta. Gioia. Io non che fa che non so fare il vino. Come è tu? Non te lo paghi il vino tu. Io ho 2,50 euro. 2,50 euro al litro. Positivo. Ecco, si può entrare? Avanti. Una buonasera. Buonasera a tutti. Sì. Come? Ho detto che sì. Sono Antenna 1, grazie. Già, non so. Vai, Antenna 1. Antenna 1, sì. Buonasera Antenna 1. Poi in compagnia di Parchetto e di Antonio e Momolo. Avanti Antonio Momolo e Antenna 1. Ciao Mombo, io sono nuovo arrivo. Già, vabbè, qualcuno mi conosce di modulando, ma... Andrea ci dice, scusa, niente, mi sono verificato, faccio, arrivato. No, non si capita molto. Non ho sentito, non ho capito bene. Infatti, quello che stavo per dire, che non si capisce molto. Ah, perché non ho sentito la recensione. Grazie, faccio un ricambio. Chiappa. Ma hai pagato la concessione, così è. Positivo. Vai, allora sai come si fa? Vai via Brigata Sassa, ti fai dare i moduli, ti compili, e vai e paghi il bollettino, 12 euro, dai. Sì, ma non ho capito, ma per che cosa? Non so per me, non spiegami, faccio ricambio. Qua si paga la tratta come il televisore. Tutto bene, credo. Sei entrato che chiede il break. Scusami, stai dicendo male, saluti a Bombo perché io non dicevo molto bene. Ma anche... Ai ai, ha detto che non ti riceve bene, ha mandato i saluti Bombo. Ma sì, sì. Ok, ricambiati Antenna 1 e saluti a Antonio Momo e se vai copiando. Cambio. Grazie, ti ringrazio amico. Ma dove è molto la bomba? Molto lontano? No, voglio sapere il tipo. Zona la veloce. Come? Latte dolce. Da? Latte è impossibile. È impossibile. È impossibile. Tu da dove stai volando? Sacco fuori. Sacco fuori. Faccio, ricambio, ricambio. Da dove stai volando? Che zona sì? pellicciandomi. Scusa, ma che? Ti è pellicciato? Passi. È già passi, già. Ma c'è infatti un po' passi c'è stasera. Deve essere tu. Guarda, c'è un QR troppo alto. La vagata. Avanti il bimbi. Rulle. Appunto Capri 2, se si è l'ascolto. Se rispondi alla chiamata della vele, cambia. Ma sta via qualsiasi viaggio? Positivo, stiamo andando a Milano. Alle Alpi, solo se la Juve ci vedrà. A Milano si è copiato, antenna 1. Oh, Franchetto, sento qualche ronzio, ma c'è qualcuno che sta parlando. Via, antenna 1 sta parlando, ma è bassino comunque, Pierpa, è molto, molto basso. Scusa se ci siamo messo, perché la Juve la Juve. Ehi, capa, vuole la discesa delle Alpi, non lo copio, Marchetto, nella discesa delle Alpi, non lo copio. Ah, si deve far sentire un po', capito, antenna 1, vela nella discesa delle Alpi, non si copia, stai uscendo di radio, stai scende tutto, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow. Chi è, chi è, chi è? Stai uscendo, stai uscendo di radio. Tutto, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow. Sei fuori frequenza, amico, sei fuori frequenza, non comprendo nulla. Ah, tu. Antena 1, fai, che qualcuno mi sente? Ti sento basso, meno avanti. E io la peggio, passo, ricambio. Cosa hai detto? Cosa hai detto? Peggio o meglio? Basso, ricambio. Sei basso? Sei basso, capito? Riesco a toglierti a malapena. Non posso fare niente, Stefano. Va bene, anche scusa. Ciao. Ciao, chiudendo sai? Ciao, sono buono. Se non mi senti, non so niente. Non te la prenderà male. Io ti sento piccolino, piccolino, capito? Ma non te la devi prendere a male, capito? Cambia. Perché non viene al sistema della antenna? Questa regia? Che puoi? Faccio, te li cambio. No. Te li cambio. L'antenna. Ecco qua, aggiustarti l'antenna, perché non ce l'hai spezzata. Hanno mutato. E questo è quello che ha visto l'antenna. Chi è che il segnale appunto così grande non ho mai sentito? Basta. E lui ho messo davanti su qua a campo. Salvo. Ecco, niente, l'antenna non so. Ah, funziona l'antenna già. E chiama l'antenna. Quindi io capisco. Faccio, non lo so, a Grazie. non lo so. Non voglio ripetirlo. Grazie, consulente Vangheri. Ma se l'ho fatta la strada, l'ho fatta la via, pesantola. Ho capito. Ma quando ce l'ho fatta la pesantola lì? Me l'ho fatta le cose. Io sto viaggiando. Tanto fante, tanto la statua. Statua, sì, è normale, come l'hanno fatta solo, la fanno anche a me. C'è una fante, la fanno per sempre, c'è stata lì, è una modificata. Ma no, è originale, è purissimo, Scusa. Sì, dai, migliorina passa in quell'X positivo e rilancio mica antenna 1 per canale 5. Ah, vabbè, invece, migliorina, ma non è molto, scusate, migliorina, non è molto di ricambio. Ma Camillo qua, scusate, è come risorso. Mi, se arrivate allora, va, fate un giro. Io non mi preoccupo di battermi. Trattiamoci bene, vogliamoci bene, che cosa bisogna dire? Non è vero. Ma è vero, sì. Ho un calo. Stavo prendendo. Che è vero, sì, ho un calo. Sto parlando. Rimetto il tutto a Pierpaolo, avanti Pierpaolo, ho la buona sera, non ha capito il siamo 9 più 10, immagino. Ma sono scusate, nel senso con la Antonio, ma metto il cambio a Lucca, Lucca, capi due, ti rimetti il cambio, farei girare. Non lo so se entra ci mettiamo d'accordo, perché io non lo riparo quell'apparecchio. Cap, Capri 2, lo sto aspettando anch'io perché dobbiamo fare un lavoretto insieme a Pomponio, quindi siamo in due che lo aspettiamo con trepidazione e cambio. E ok, no, glielo parlo, glielo dirò, perché l'altro giorno mi ha proposto, diciamo, se lo prendevo io, che non lo potrei anche prendere, perché non ho intenzione di metterlo a posto quello, perché ne ho tanti, capito? Lui mi ha proposto, siccome ne ha uno di Mario Manzi, di Parandre, a qualche età, io il giorno gli ho detto di no, adesso se... Capito, se ci mettiamo d'accordo glielo posso anche dare. Ok, riprendi Luca. Prendi Pierpa, Luca, non mi sente, non ho ancora messo mano al microfono, Pierpa. E comunque tu di che ciao, come si chiama? Tipo svitando così. Sì, devi svitare quella la borchetta, io ce l'ho davanti qua. Devi svitare, svitto quello che devo fare lì, svitta un pochettino. Adesso quello, l'anello grande dove c'è la capsa, svitta per appena, poi da lì devi tirarlo su. Però meno, questo qua è fatto così, ma penso siano tutti uguali. Ma l'anello meno sta dicendo Pierpa? A parte dove c'è la capsa, dove quasi vicino a dove c'è l'asta, dove arriva l'asta, non è un vedi che c'è una spaccatura lì. Quello volevi tirare. Sì, capito, in poche parole ci divide in due il coso. Esatto. Ho capito, infatti un po' muove, però per farlo ce l'ho fatta, ma pensavo che era bloccato all'indietro da qualche pizza, e siccome dietro c'è quale c'è la marca Tarne, pensavo che di dietro lì ci fosse una pizza io. No, questo no, perlomeno questo non è così. Sì, no, c'è un altro adesivo dietro, non so se ne ce l'ha il tuo, c'è scritto Tarne il microfono, piccolino. Papa, così è. No, che io pensavo che lì sopra c'era qualche pizza che teneva bloccato il tutto. No, vabbè, non ce n'è. E ok, allora neanche il mio, allora svita come stai dicendo tu. Ok, facciamo girare, rilanciamo il tutto a Falchetto, poi Antonio lo rilancerete voi. Avanti Falchetto. Non lo sentivo accento, no, non ho sentito Antonio, capito? Non l'ho sentito per niente, se in caso dovessi sentirlo già confermo quello che hai detto. Ok, detto questo rilancio il mic a Giuseppe, se ne ascolto, vai avanti Giuseppe. Sì, grazie Falchetto, io rilancio per un momento a Pierpaolo perché ho una mandibola a mezzo piena, cambio. Cosa c'è una mandibola a mezzo piena? Sono come seguenti Pierpa. Dai, non masticare. Mannaggia, mi è toccato buttare giù il morso mezzo intero. Eccomi qua, come che non sia successo niente. Allora, dove eravamo rimasti? Come mi stai copiando tu Pierpaolo? Come ti sto copiando? Io non ti copio bene. Come cazzo, oggi non c'è bocca, Già riuscite, io credevo di svegliarmela per due minuti, invece devo controllare qui a casa se mi avete piazzato qualche telecamera, vigliacchi come siete voi. No, no, non le facciamo noi queste cose. Capri 2. Ma qual c'hai tu, quello di Torre più 3? No, c'ho quello color verde acqua. Ah, capa, il più antico c'hai, dai. C'hai la versione più antica. Ok, non glielo accendo, Pierpa. E stavo dicendo... Io ce l'avevo sempre funzionato bene. Garaggi, qualcosa, e poi... l'ho attaccato, però... devo gridare per farlo funzionare. La palla a fila è a posto. Sicuramente la capi, Pierpa. Ma raramente si guarda quella capsula, provo a vedere, attaccarne un'altra, ma non credo che sia la capsula, dovresti controllare il circuito. E ok, ho qualche transito, forse è saltato, non lo so, e non un uovo lì. Che cazzo? Tanto questo è nuovo. Volevo attaccare perché questo qui era attaccato all'altro apparato, Pierpaolo, ho voluto staccarlo e fare l'intestazione per questo, e questo mi dà 10 il corpo e 10 watt l'apparato, e quindi ho voluto cambiare l'intestazione a metterlo su questo, però mi dispiaciuto di levare il microfono da un foro e metterlo nell'altro. Ecco, ma ho pensato poi lasciarmi fermi, Dovrebbero sempre andare, io ogni tanto già lo uso, va sempre bene, perché sono un pezzato. A me il carrer più 3 mi piace troppo, E io ho anche il carrer più 2, ciò che fa. Capo, lo vanno bene, qui in Italia vanno tutti bene. No, sono contento che ci abbia dato la fare del segnale. Con questa roba mi ha trattato bene Pierpa e mi ha mandato, ha detto vai tranquillo che fa meglio di come tu pensi. Infatti ho aperto a vedere che valgo la montata, nel DP andava la 509 e qui c'è la 519 e lui ci rialeva, la CBC c'ha le valvole lì. Mi ha detto di non preoccuparmi se si dovesse montare la valvola, lui c'ha le valvole nel resto bottega. E infatti l'altra sera che io gli ho chiesto, non mi ha detto Torino che non ce li aveva, ha detto già, io lo conosco a Torino, lo conosco 35 anni, mi ha detto telefonami dopo l'ora di chiusura, poi ho lasciato perdere, ho lasciato per fare niente, capito, però ce li ha. Oh, oggi ho ricevuto stasera i fax della ZC, mi hanno mandato tutti gli schemi di tutti i tipi di BV2001 dei lineari. Capo, perché magari lui ce li ha a Torino, ma non ho capito perché non li vende al banco, ma magari se ce li ha così puoi riparare anche l'altro, o te lo puoi, secondo quanto costa, te lo puoi tenere scorta a qualcuno. Ma comunque, questo va benissimo, che cos'è? Widrand? Praticamente io per farlo so come lavorino le case, e un Midland, allora Alan K 1313, 1313, però se tu lo guardi per fa è preciso al BV131 della ZG, praticamente già sono spostati, e come si chiama, gli interruttori invece di essere a destra sono sulla sinistra, capito? Però lo stesso contenitore lo è preciso identico. E poi era solo quello. Ma solo quello, ha detto che non se ne trovano gli ali, ma sicuramente qualche avanzo di Marazzino penso che fa. Chi sa che era bucato, ma ti vorrei essere mandato a Torino, lo conosco bene anche, l'avevo chiesto anch'io, e non è vero, deve essere che l'ha buscato recente da qualcuno. No, perché stamattina dopo 20 minuti ero lì, andato nell'elettrobottega, c'è la roba, lo sai cos'è? Molte volte per non te la danno perché fanno inventari certe cose che sono fuori dal gioco del negozio, poi che sono state dismesse, che ci sono da molto, non rientrano più. È stato dentro e me l'ha dato dall'elettrobottega, non è esposto. Ho capito. Se arrivo a Montella 1 dovremmo dire qualche cosa, però non aspetta. Avanti. Che fa, grazie. Ma è stato saluti a tutti, perché io non sento a loro. Sento solo a te e la voce si può segnare. Ma tanti saluti, grazie. Siamo molto momento. Ok, ringrazio, basta, tanto, così, ti ringrazio, buona sabato e buon festival, grazie, ciao, basta, e chiudo. Va bene, Antenna 1, buon proseguo di serata, ce la riascoltiamo le prossime, dai. Ok, buonanotte, buon tutto. prendi Giuseppe. Sì, buonanotte e buon proseguimento, Antenna 1. Ci si sente presto, dai. Avanti Luca o chi vuole riprendere della ruota? Luca non c'è, Gianni? Gianni, scusi, io non ti stasera, non l'ho arrivato, che io l'ho sentito dopo pranzo, dopo entrava. E K, Capri 2, K. Volevo chiederti una cosa, Capri 2, ma tu hai solo fatto la sistemazione dell'apparato, l'antenna non l'hai ancora toccata? No, l'antenna è appoggiata sul tetto, Giuseppe, se alzo l'antenna guadagno ancora qualche altro pollice di santiarie, perché sta toccando il tetto, volevo portare un tubo di quelli di acqua, con una bomboletta di zinco, la faccio come si deve, appena fa tempo buono, e poi vediamo se va. L'antenna l'ho comprata nuova, ma è una Gran Play di un quarto d'onda, capito? Però si è alzata, diciamo, un altro pochettino dovrebbe andare, anzi nascosto nell'altro palo, che lì posso ancora, sono più sicuro come per alzarla, perché sono due pali, uno c'è quello della televisione e uno c'è lì, però quello della televisione non posso passare dove questa antenna e io la piazzo alla parte opposta e così alzandola guadagna qualche cosa, perché qui si trova anche un muro del vicino e sbatte lì e forse c'è il pezzo di muro alto e non riesce a irradiare perché diciamo il muro è fatto a gradini, magari spostandolo come sto dicendo io lì trovo il coso aperto, non riesce a fare di più. Capri 2, figurati, già arrivi adesso discretamente qui, da non sentirti niente, stai arrivando bene, figurati se la sollevi ancora di più, abbiamo fatto primiera e sette bello. Già lo faccio già, perché mi devo fare anche dei puri, mi devo fare, capito, adesso poi se è venuto il tempo brutto, capito, a dicembre, molti anni fa facevano delle giornate favolose, invece quest'anno ha fatto proprio un inverno ed è rimasto così, io oltre che ho il tetto che fricchio, non ho trovato la casa tutta, ma il tetto non l'avevamo toccato perché non ci scendeva un goccio d'acqua, però le tevole sono vecchie e più in là lo dovrò fare, però con attenzione salirò e farò il tutto, perché quando l'ho comprata e l'ho piazzata ero anche da solo, i miei figli non mi aiutano più di tanto e quindi perché non gliene frega nulla del baracchino e niente, però mi dedicherò almeno a mantenere il tubo, hai capito, dargli una mano, poi direi un attimo in estate sono buone, sono dove la devo attaccare, l'ancora, scusa, tanto denaro, non Santiago lo guadagniamo, ok, riprendi Luca, riprendi, a voi rilanciatemi. Perché ho l'amplifica che c'è qualche transistor fino al sacco, che è molto probabile per fare, perché io devo fischiare forte per fare apparire la lucetta, quindi con questo lo allontano, capito, e la luce si accende lo stesso. Anzi, prima stavo pensando che era un problema d'apparato e che c'era qualche altra valvola del modulatore che era saltata, non è così, perché poi come ho attaccato questo ho visto che pimpa, mi muove tutte le lancette, mi muove questa roba, quindi è da ricercare o sul circuito o sulla capsula, però sto pensando, adesso ho detto la capsula, però più al circuito anche che fa, perché la capsula è bene contenuta dentro, non se, se avrebbe preso colpi che si era guastata non sarebbe uscito per niente, vabbè, lo controlleremo attentamente, riprendi ancora a girare. La capa, no, ma guarda, quella capsula lì, difficilmente si rovina, difficilmente. Dai dati che ho io qua si rovina difficilmente, anche perché quello lì, quando tu lo togli adesso e togli quella palla dietro, lo vedrai. È tutto un blocco, è tutto un blocco. Infatti i colpi non li ha preso perché quando l'ho preso l'ho appoggiato sullo scaffale assieme al Costat e il Costat diciamo sono riuscito a metterlo a posto in ricezione per fare come può darsi che si sia anche stanato che bisogna ricorrere io adesso le cambierò le valvole finali al Costat che ce le ho le L84 e poi agirò sulle bobine per rifare la tarattura perché che questo l'ho dovuto ritarare, questo che sto usando adesso non andava a nulla, ho cambiato la valvola finale, la 6E M5, allora è iniziata dalle 3/4, allora poi l'ho frisciato, sono andato a cortarlo sotto e dai 10 watt, perché io c'avevo un impianto all'epoca, e dai 10 watt come nel catalogo, precisi e non fanno una grinta. Ok, avanti Falchetto, fai girare per Antonio. Falchetto? Yeah. Ok, raccontaci qualche cosa anche tu, Racconta, io te la conto, via. Stanco solo, stanco. Ok, tutti siamo stanchi, a tu, e cosa vuoi? Anche io non è che faccio il lavoro, però io, diciamo, sono sempre con più rispettati, capito, devo dare sempre. E ho lavorato anche in impresa, ripeto, però la stanchezza, anche piene senza far nulla molte volte, non è che un lavoro pesante che faccio, però, hai capito, quando c'è gli appuntamenti a tale ora devi essere preciso, quindi molte volte ti crea anche stress, perché non è che mi posso allontanare anche a fare cose, la mattina diciamo è più libera del pomeriggio, vabbè, meglio che ci sia così, riprendi Giuseppe. Attenzione Capri 2. Perri avanti. Antonio sono. Mi ascolti ancora adesso? Fa che ti ascolto. Ha spento il televisore, speriamo che non lo riaccenda. Ehi, vabbè, Anto, cosa vuoi fare? C'è una donna anziana che lo accende, hai capito? No, anche io stasera ci avevo una propagazione, guarda, bestiale, arrivavano da tutte le parti e si riusciva a fare fatica a ascoltare anche a Natalino, perché arrivavano sparati qui e comunque qualche passaggetto l'abbiamo fatto lo stesso. Bene, allora rilasciamo a Giuseppe. Giuseppe, ci sei? Capri 2, riprendo io il mic. Sì, effettivamente hai ragione, perché c'era una propagazione micidiale questa sera, arrivavano dalla Spagna, dalla Francia, sparavano un po' da tutte le parti, e niente, anch'io stasera ho avuto difficoltà a modulare con gli amici, però diciamo, dai, va bene così. Io volevo fare anche qualche prova a chiamare, però diciamo che già avevo il servizio, poi stavo aspettando questo fax dalla ZG che l'hanno mandato i signori che ringrazierò domani e quindi dopo dovuto lasciare le trasmissioni per andare a vedere il tutto, e comunque stasera era bello. Poi qui arrivano il ricevitore da 10 watt di questo, sia il trasmettitore che il ricevitore, quindi questo pompa forte forte forte, perché per Paolo si arrivava con 3 santiani in meno con l'altro apparecchio, invece qui sembra che sia seduto nella poltrona a fianco. E riprendi Pierpa. Se continua a farlo scaldare, da 5 si è già arrivato quasi a 7. Avulazione supersonica la tua, cambia. Ok, io lo so che più scalda, me l'hanno detto, più scalda e più guai, infatti io ho sempre preferito la roba a valvole, me l'ha detto anche Gianni, più stai scaldando più sta andando, e mamma, basta che noi ci ascoltiamo e Pierpa, poi diciamo l'importante è di essere comprensibili, non mi fa piacere fare molta caldo, ma non ho potuto prendere, altrimenti era quella, non mi ascoltava Giuseppe, non mi ascoltava, se sarebbe entrato Giulio Dollaro, da ottava non mi avrebbe ascoltato, o Gigi Bucano, perché liscio non ci arrivo, è proprio la montagna, e poi non forse non è neanche quello che sbatte proprio dove è piazzata l'antenna a quel pezzo di muletto, e adesso vediamo di, come stavo dicendo, di fare i lavori al più presto. Ok, rilanciamo di nuovo al volo a Falchetto, vai Falchetto. Ne approfitto per salutarvi a tutti, dai, a tutta la ruota, QRX da parte mia, dai, tutta le migliori, ciao Giuseppe, ciao Capri2, ciao Vela, ciao Antonio, Luca, Gianni e a tutti gli ascoltatori, QRX da parte mia, ciao ciao. Ok Falchetto, buon proseguo e buon trabacco per domani, dai, ci sentiamo alle prossimine. E avanti Capri2 per i saluti. Ok, ciao Falchetto, è stato sempre, diciamo, quando ti sente sempre un piacere, se deve essere anche in verticale una persona molto cordiale, vabbè, per il modo anche come saluti quando entri. Hai capito. E ti auguro un buon QRT perché ha preso di sentirci, sperando che sia anche domani, perché io quando ho 2 minuti liberi lo accendo anche così per farmi 2 chiacchierate anche mattutine, se sono in casa che c'è quel tempo più lungo per trascorrere all'apparato. Ok, rilascio a Pierpaolo, va Pierpaolo per i saluti. Ciao Falchetto, ce lo riascoltiamo domani, domani so che sei libero, fatti sentire da prestino che so che sei all'apparato presto, ok, ciao, buonanotte, ce lo ascoltiamo domani, avanti Antonio per i saluti. Ciao, buonanotte, Falchetto, dai, ce lo sentiamo domani. Rispondimi, antenna 1 che è qua, passo, ricambio. Giuseppe. Eccolo, dimmi Pierpaolo. Hai sentito l'antenna 1? Il vocabolario delle parole greche, dai, l'ho chiuso Pierpa, se antenna 1 vuol parlare bene io lo capisco, però così, credimi antenna 1, non va bene, dai. Senti, Giuseppe, non la parola di altro, se ci sono chiesto la copia, poi, grazie, ricambio, passo, ricambio. Va bene antenna 1, dai, ci sentiamo alle prossime, dai, perché sinceramente non riesco a capirti, e avanti Pierpa. Chiedevo a Capri2 se sente antenna 1. No, non lo sento, per fortuna non lo sento. Chi è capace di ascoltarmi un attimo quanto me, perché a me mi piace, io scherzo, faccio lo scemo, tutto quello che vuoi, però bisogna essere nella frequenza, se uno entra anche con tanto di educazione, con tanto di educazione che è quella che mi hanno imparato i miei genitori, perché ho anche un brutto carattere, Pierpa, quando mi ammiro ho anche un brutto carattere, cioè c'è un bel po' se vuole entrare uno entra o altrimenti lascia parlare gli altri, perché e anche il lavoro qualche cosa deve capire, non so se è un ragazzo oppure se è una persona già di una certa età. Riprendi per farlo. Bene, allora facciamo così, guarda. Tu c'è il Capri 2 19 Alfa? No, io sto usando il 23 a valvole adesso, che ho il 23 a valvole, perché sto pensando manco a, a cambiare, io ho messo questo apparecchio per fare. Certo, no, io mi manco. Per lo stadio ne ho 400 addirittura dei canali. Però adesso lo devo stare attaccando e staccando tutto qui, perché c'è uno che non lo va bene assolutamente. Hai capito? Però se ne capita senza farci cambiare il portale, mi senti? Richiamato perché ho sconvertito. Sto modulando sul canale 21 e mi devono rispettare, Pierpa, così la penso io. La penso anch'io così, però anche il lavoro vuol capire di non parlare sopra a Capri 2, anche il lavoro. Io te lo richiedo per favore, se non mi costringi a girare lì per Piazza Torre, corro via Viuzze, cercare Altena e trovarti, perché cioè se vogliamo scherzare con altri metodi scherziamo, perché se no scherziamo male. Allora devi volare quando devi parlare tu, che ti passo il microfono, se vuoi parlare parlare bene e scaldire bene le parole, perché fino adesso non ti riusciamo a capire. Io posso capire tutto, posso capire le persone, quello che vuoi, però insomma fare la chiacchieratina, altrimenti mi vedo costretto a dirti che non sei gradito in questo canale. Purtroppo mi vedo costretto. No, sbagliatissimo, non pensare male, io volevo chiedere un'informazione, ma se tu mi dici qualcuno che mi sente, cosa vuol dire? CB? E via, ma che cosa lo fa? Se me lo sai dire, che cosa sia? Va bene, allora te lo spiego. Fin qua ci siamo, allora, te lo spiego io, se, come sia adesso, se è il tasto che c'è scritto CB, lo lasci così, parli così nella frequenza dove stai parlando. Se lo metti in PA, ti fa tipo attacchi una colonia esterna, e ti ascolti tu parlando, parli con il mic e ti ascolti nella colonnina. Il PA serve a quello, che è una sciocchezza, non ti serve a niente. Per parlare con noi lo lasci così, in CB. Ok, hai capito? Sì, grazie, ma sì, ho messo il break, non sono mai qua di casa. Scusami. Ma tu devi capire una cosa, che quando ci sono più persone si lascia anche finire il discorso, quando ha finito il discorso non è che devi poi breccare ogni volta, se tu vuoi fare un questione ti verrai rilanciato non appena possibile. Per esempio quando stavo parlando adesso Capri 2, se rilancia un attimo il bianco fai il tuo intervento quando ha finito, se non lo senti magari chiedi, c'è qualcuno che sta parlando, perché io non lo so se tu lo sentivi a Capri 2, appunto per evitare che se non senti gli altri di sopra modulare, aspetta che ti venga data la parola, capito? Così almeno non so lavoro degli altri. Grazie, ma se io non li sento gli altri, come faccio a modulare i capitani che non li sento? Quella... che discorso? Scusami, Riccardo. Io ne sono consapevole che tu puoi anche non sentirlo a Gianni, ma se appunto che non senti, se senti che non sta parlando altro nessuno, vuol dire che c'è qualcuno che tu non senti. La colpa non è di Gianni che tu non riesci a sentirlo, la colpa è la tua che non hai l'antenna adeguata. senti. Quindi di conseguenza, aspetta che ti venga data, ho preso da poco qua, aspetta che ti venga data la parola. Se poi può succedere che viene ritardato di data, allora sì, magari la chiedi, ma non è sovravalutazione, intanto non sei sovravalutazione cosa si sente. Si sente un fischio che non si capisce niente, quindi quello che stai dicendo è tutto inutile. Fai dire le parole inutili a quello che sta parlando e a te che non ti si capisce, e già non ti si capisce anche normalmente. Riprendo io per un secondo. Vai. Se non ho sentito male, c'è stato un paio di minuti fa un break. Se non ho sentito male dovrebbe essere K2. Se sei in ascolto, avanti. No, fa antenna 1 in ascolto e parlo io al posto dell'antenna 2. Scusami, io non so come questi casi funzionano. Allora non hai capito proprio niente. Io ho detto, tu sei antenna 1 e non antenna 2, ma se posso sapere, sì, tu. Io ho detto K2, K2, avanti se ci sei. Niente, io non ho colpa mia, io per entrare. E invece lo si chiama, lo fa tre, grazie, va. Capito più fa, ma lo sai che questo anche se non ce l'ho carissimo, ma ascolta, proprio me, domani mattina, cioè l'indomani, quando c'è più sano entri, quando sei così chiudi la radio, perché adesso non le palle piene. Due. E avanti. Ma come arrivo lì, le amuro, so già. Ho copiato bene, però mi puoi ripetere. Ma ti ha chiesto un segnale. Prima stavo arrivando Santiago di 3 e mezzo girate al 4, però io ho QRM, in realtà io l'avevo passato appena appena le rifiuti, rifiuti avanti. Ciao, guarda vedere come ti arrivo, attenzione K2. Santiago 3 adesso stai arrivando, Santiago 3 non ti devi preoccupare che ogni tanto la, può essere anche la mia antenna, perché mi aveva detto Giuseppe che anche senza questa roba l'altro giorno di giorno mi ascoltava bene, di notte, hai capito, ma può essere anche l'antenna mia, appunto, non ti mettere scrupoli, e poi quando è piazzata bene allora, perché l'altro giorno mi ha detto Giuseppe che mi ascoltava bene, poi senza toccare nulla mi ero abbassato, posso essere anche io, però Pierpaolo mi arriva bene, con questo apparecchio ha migliorato alla grande, perché c'è una ricezione formidabile, anche Giuseppe, anche tu Anto, perché pari potevo arrivare in ricezione, a te prima non riuscivo a ascoltarti per niente, si vede che questo apparecchio in ricezione vale qualcosa. Ok, perfetto, rilanciamo a Giuseppe. Sì, grazie K2, riprendo il mic io. Sì, finalmente riesco a copiarti, sì, discretamente devo dire, dai. Niente, poi per quanto riguarda l'antenna, ti volevo dire, come arriva il bel tempo non farti scrupoli, da passare a muro se un tiro di schioppo, basta fare un fischio e se ti occorre una mano io sono il... sono il primo a venire a darti una mano per questo benedetto palo K2, senza nessun problema. avanti. Ti ringrazio Giuseppe, ti ringrazio. Adesso aspettiamo il bel tempo, allora aspettiamo il bel tempo e poi vedi che facciamo il lavoro come si è, perché l'ho montata nel mese di ottobre, guarda, io poi ho ritardo più vigilante e temevo per le tegole, perché sono tegole che vecchie, magari ne ho rotto, me ne ha date uno perché ne aveva di una casa vecchia che aveva demolito, ma non è facile a trovarle, quindi hai capito, non ci scendeva neanche un bote, per fortuna non ci scende, non voglio che faccia danno e niente, me la cavano tra le parole, tra nel tetto. Ma meglio così, poi quando faccio il tempo mi faccio anche dei tralicetti per collegare i vipuri, eventualmente che prenda la patente anche, capito? E poi metterò lì al centro una direttiva se prendo la patente. Adesso il tempo sarà, diciamo, consiglio. E prima diciamo è dovere, poi mi piacere, comunque sto sempre studiando per la patente, è un po' tosta, ma mi auguro anche io di poter diventare radioamatore, però senza lasciare la 27, si intende che mi piace chiacchierare con voi, riprendi per fa. Capri 2. Buon lavoro per domani e ci risentiamo prossimamente. Ok, ciao ciao, avanti Antonio per i saluti. Buonanotte Capri 2, ce la risentiamo tutta alle prossime domani. Ciao ciao, buonanotte. Grazie, ciao ciao a tutti, ciao. Ciao ciao ciao. Va bene, adesso possiamo anche rilanciare all'antenna 1. Avanti antenna 1, vai. Prima di uscire però già sempre, dimmi amico, cosa è di novità? Fatto, ricambio. Ah, non sentivo per niente, Capri 2 ha salutato tutti quanti e gli ha dato i QRT. Buono, i QRT dai. Scusa, non mi ricordo, però manda tanti saluti perché io sento poco il volto, perché da qui non si sente proprio niente. Voi parlate, parlate, ma io non sento agli orari. Ricambio, salute, grazie. Va bene, ti ha salutato comunque, va bene. Avanti Giuseppe, dai. Sì, grazie Pierpaolo. L'amico Antenna 1, come hai detto tu giustamente poco fa, dovrebbe munirsi di un'antenna un attimino più idonea per la conversazione così sui 27. Presumo che stia usando sempre questa benedetta Storm e niente, e anche deve avere un attimino di pazienza quando si è qui nel giro, anche se non sente nessuno parlare, Antenna 1 deve anche capire che niente, vuol dire che c'è qualcuno che sta modulando in quel momento e dovrebbe chiedere se c'è qualcuno che sta parlando, tutto lì, sin quando anche tu non ti prendi una bella antenna, Antenna 1, visto che va anche coincide, no? Antenna, Antenna 1, vai Antenna 1. Grazie, io te lo ricambio, faccio il possibile, ma purtroppo c'è un'antenna di macchina, non quella marraggio, vado, c'è un paolo di forza, l'importante è stare in compagnia, pure il nostro, anche a me piacerebbe ascoltare più gli altri, cavolo, anche io che non piace, l'amico. Ma purtroppo non lo faccio a forza di andare, di scappare, ma non me ne frega, capisco che non c'era niente, non mi permette, quando c'è la possibilità me la metto un'antenna, grazie, scusa, ricordo, ciao. Vai a Tori, prendi tu. Ciao. Vabbè, dai, non ha problemi. Comunque stavo dicendo, già non ci sono problemi per salirla più su con l'antenna. Io peso un pochettino più di te, peso 94 kg peso. Però magari in due già se ci arrangiamo, dai, vediamo un po'. Sì, anche perché lì a Muros non penso che siano alte più di tanto queste benedette case, mi hai capito Antonio? Non lo so se è proprio campagna a campagna dove abita lui, però lì poteva mettere un palo, come magari cementato a terra e poi salire con tutti gli altri pali, magari dei pali saldati da 6 metri l'uno, mettere la cravatta sopra i tiranti in terra, non l'avrebbe messa sul tetto, dai, l'avrebbe fatta anche più alta. Sono d'accordo anch'io, magari anche usando dei tubi innocenti sarebbe andato bene, perché una volta che li incravata bene lì anche al muro della casa, dove vuoi che vadano quelli? Grazie, avanti Antenna 1. Pronto? Un attimo, si può usare? Faccio una mano, ovviamente, non comprare. Che antenna vuoi? Non buona, vedi, cazzo, non dico, un'antenna che almeno va di bene. Aspetta un attimino, dai, aspettami un secondo. Pierpa. Dimmi. Ma agli subissino una forma, li potrebbe andare bene. Non so,